Di fronte ai giganti. Leggo nella Bibbia, nel libro dei Numeri, capitolo 13, versetto 27, fino al capitolo 14, versetto 9. Fecero il loro racconto e dissero: «Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano». Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi», e screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro». Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: «Fossimo pur morti nel paese d'Egitto, oh, fossimo pur morti in questo deserto! Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?» E si dissero l'un l'altro: «Nominiamoci un capo, torniamo in Egitto». Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutte le comunità dei figli di Israele: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un buon paese, molto buono. Se il Signore ci è favorevole e ci farà entrare in quel paese, ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi. Non li temete». Se si riempie a metà un bicchiere e si chiede ad un gruppo di individui di indicare cosa vedono, alcuni diranno che vedono un bicchiere mezzo vuoto, altri un bicchiere mezzo pieno. Le 12 spie inviate da Mosè ad esplorare Canaan avevano visto tutti le stesse cose, ma la loro percezione di ciò che avevano visto era piuttosto diversa. 10 uomini su 12, pur riconoscendo la bontà del paese in cui si accingevano ad entrare, erano stati impressionati dall'apparente forza degli abitanti del paese. Ai loro occhi quegli uomini sembravano troppo forti per poter avere successo. Per loro il bicchiere era mezzo vuoto. Agli occhi di Caleb e Giosuè, invece, la conquista del paese era alla loro portata. Caleb e Giosuè non vedevano la forza dei loro nemici, ma vedevano ciò che sarebbero stati in grado di fare con l'aiuto di Dio. Se il Signore fosse stato loro favorevole, non avrebbero avuto nulla da temere. Il popolo fu certamente impressionato dal racconto delle 10 spie pessimiste. D'altronde erano la maggioranza. Il pessimismo dilagante portò il popolo, in men che non si dica, a cercare addirittura delle alternative a Mosè per poter tornare in Egitto, nonostante tutto ciò che Dio aveva fatto per loro fino a quel momento. Essi vedevano solo le difficoltà, i lati negativi, i pericoli, i giganti. Ma è proprio di fronte ai giganti che occorreva avere fede. Dio aveva promesso loro una terra straordinariamente ricca, ma dovevano andare a prendersela. Non sarebbe stata una passeggiata, ma come aveva giustamente osservato Caleb, era un'impresa alla loro portata. La differenza tra Caleb e Giosuè e il resto delle spie non stava in ciò che avevano visto, ma nella loro fede in Dio. La fede di Caleb e Giosuè faceva vedere loro il bicchiere mezzo pieno, prossimo ad essere completamente riempito. È facile perdere coraggio di fronte agli imprevisti e alle difficoltà, ma non è proprio di fronte ai giganti che ci si dovrebbe incoraggiare, ricordando come Dio ha già agito nel passato? Gli israeliti si erano dimenticati troppo presto delle meraviglie che Dio aveva compiuto per tirarli fuori dall'Egitto. Si erano dimenticati l'attraversamento del Mar Rosso mentre gli egiziani perivano in mezzo alle acque? Erano forse gli egiziani meno pericolosi di quei giganti di Canaan? Forse prima o poi ci troveremo in situazioni che potrebbero scoraggiarci. che Dio ci guidi anche in quei casi a vedere le cose come le vedevano Giosuè e Caleb, non dimenticando ciò che Dio ha fatto nel passato e non dimenticando che Egli è con noi anche quando ci troviamo di fronte ai giganti.